giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Vittorio Torbianelli è il commissario straordinario dell'autorità di sistema portuale del mare Adriatico orientale a seguito delle dimissioni del presidente D'Agostino, il cui secondo mandato sarebbe scaduto in dicembre. Non è però ancora chiaro fino a quando Torbianelli resterà in carica. Scoperti 11 lavoratori in nero tra Monfalcone e Ronchi dei Legionari, 9 lavoravano nel settore della ristorazione e 2 in un'autofficina. Nei giorni scorsi i carabinieri del nucleo operativo ecologico di Udine hanno portato a termine diverse attività per reprimere reati in danno dell'ambiente sul territorio regionale. Ancora drammatico il fenomeno degli annegamenti di animali selvatici nei canali artificiali, un problema che aumenta di pari passo con l'incremento della fauna selvatica anche in pianura. A dirlo i dati registrati sul portale Infofauna della Regione, richiamati da un comitato spontaneo che da anni denuncia il problema. Allerta gialla per maltempo in arrivo nelle prossime ore, attesi temporali forti e piogge intense in pianura e sulla costa. Resi noti i nomi dei vincitori della 40ª edizione del premio Hemingway. Quest'anno il premio per la letteratura 2024 va a Benjamin Labatut, scrittore cileno, con la motivazione di aver offerto un meraviglioso intrico di racconti che pongono al centro della narrazione la conoscenza tecnico-scientifica. Ed è stato presentato poco fa a Udine anche il programma dell'edizione 2024 di Folkest, il Festival Curioso del Mondo. Le 12:31 minuti e 45 secondi, ancora un buongiorno da Giorgio Beyerz e da Lorenzo Gherinzoni, che condurranno questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di giovedì 30 maggio. Vittorio Torbianelli quindi è stato nominato commissario straordinario dell'autorità portuale, lo ha comunicato il Ministero dei Trasporti, che in una nota sottolinea che la nomina del segretario generale dell'ente in continuità con la gestione di Zeno D'Agostino, che si è dimesso dalla presidenza, permetterà di portare avanti numerosi progetti anche infrastrutturali che sono attualmente in corso, che erano stati imbastiti dallo stesso presidente dell'Authority, il quale da parte sua ha espresso in una nota tutta la sua soddisfazione per la decisione presa dal governo. Ancora da chiarire però la durata dell'incarico. Vittorio Torbianelli è il commissario straordinario dell'autorità di sistema portuale del mare Adriatico orientale. La scelta è stata comunicata ieri dal ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini. Il commissariamento si è reso necessario a seguito delle dimissioni del presidente Zeno D'Agostino, il cui secondo mandato sarebbe scaduto in dicembre. Torbianelli già conosce la macchina del porto dove lavora da 7 anni. Da 3 ricopre la carica di direttore generale, un ruolo di grande importanza che ha ereditato da Mario Sommariva, un tecnico andato poi a dirigere il porto di La Spezia. Tecnico è anche Torbianelli, 55 anni, una carriera a metà tra accademia e ruoli dirigenziali nel settore dei trasporti. La nomina è stata apprezzata dal presidente uscente D'Agostino. Torbianelli ha di fronte a sé mesi di lavoro in diversi ambiti, a partire dalla questione dei fondi PNRR. Dovrà proseguire sul percorso tracciato da D'Agostino, fatto di un potenziamento delle infrastrutture, della rete ferroviaria e dello sviluppo dell'area retroportuale anche in senso industriale. Non è chiaro fino a quando resterà commissario, presumibilmente andrà oltre il mandato previsto inizialmente per D'Agostino, dal momento che il governo sta mettendo a punto una riforma dei porti che potrebbe concretizzarsi a inizio 2025. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. La Guardia di Finanza di Gorizia, a termine dell'attività ispettiva nei confronti di un'autofficina nel Monfalconese, ha scoperto 2 meccanici che lavoravano senza contratto e senza le comunicazioni obbligatorie. Le Fiamme Gialle hanno quindi applicato al datore di lavoro la cosiddetta maxi sanzione di 3.900 euro in relazione ai lavoratori impiegati e alle giornate di impiego. Al titolare dell'autofficina, l'Ispettorato del Lavoro ha disposto il provvedimento di sospensione dell'attività in virtù dell'impiego di lavoratori in nero in misura superiore al 10% dei lavoratori regolarmente assunti. Le Fiamme Gialle hanno eseguito anche 4 controlli presso altrettante attività di ristorazione e bar tra Monfalcone e Ronchi dei Legionari, individuando complessivamente 9 lavoratori in nero tra gli addetti al delivery e il personale di sala. Anche nei confronti delle attività economiche in questione sarà applicata la maxi sanzione fino a un massimo di 11.700 euro per ciascun lavoratore trovato irregolare. Anche in questi casi riscontrato l'impiego di lavoratori in nero superiore al 10% della forza regolarmente assunta. È scattata così la richiesta all'Ispettorato Territoriale del Lavoro, finalizzata all'adozione del provvedimento di sospensione sospensione dell'attività. Mentre invece nei giorni scorsi i carabinieri del NOE, Nucleo Operativo Ecologico di Udine, hanno portato a termine diverse attività per reprimere reati in danno all'ambiente, in danno dell'ambiente sul territorio regionale e in particolare in provincia di Udine. Friuli Venezia Giulia, regione di passaggio cruciale del traffico internazionale di rifiuti, ma anche terra dove nelle aree industriali dismesse l'immondizia viene stoccata illecitamente nel sottosuolo. Tra aprile e maggio due distinte operazioni dei carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Udine coordinate dal gruppo di Venezia. La prima, in collaborazione con l'ARPA, ha portato al sequestro di un'area recintata da 4.000 metri quadrati a campo formido, con oltre 1.000 metri cubi di rifiuti derivanti da opere di scavo. Qui è stato trovato anche un container con all'interno ferro e acciaio derivanti dalla lavorazione abusiva di inerti da demolizione. La seconda operazione, condotta assieme ai tecnici della regione, ha portato al sequestro di due camion carichi di rifiuti, uno diretto in Repubblica Ceca, intercettato dalle autorità slovene e respinto in Italia, l'altro con meta finale l'Ungheria. In entrambi i casi dichiarate plastica e gomma, ma si è scoperto che gli automezzi trasportavano in realtà scarti di lavorazione di altri rifiuti, oppure toner e cartucce esauste. I camion erano partiti da Sedeiano e Talmassons. Si tratta di tipologie di spedizioni che hanno bisogno di procedure più rigide e costose. In questi casi le indagini del NOE, anche con pedinamenti e intercettazioni, servono a capire se dietro ci sia solo un singolo imprenditore che ricorre a un illecito per aumentare i guadagni, oppure qualcosa di più grosso. Tenente colonnello Enrico Risottino, comandante del gruppo Tutela Ambientale e Sicurezza Energetica di Venezia. Diventano motivo di attenta analisi per andare chiaramente a verificare le società responsabili di questo reato, ma soprattutto se dietro queste società si annidino delle organizzazioni criminali sulle quali chiaramente dover avviare poi delle attività più strutturate, specie negli ultimi anni da parte delle organizzazioni criminali, anche di natura di criminalità organizzata, appunto, abbiano fatto un grande salto chiaramente avvalendosi di figure professionali di elevata qualità, e tra queste anche di broker che mantengono i contatti, avviano i contatti tra il territorio nazionale e i paesi stranieri. Udine, Lillo Montaltomonella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Nel rione di San Giacomo a Trieste è andata in scena questa mattina la protesta dei genitori contro la riduzione dei servizi educativi scolastici e in generale sulle maggiori criticità presenti nel quartiere. Noi non siamo contrari a un impianto sportivo, anzi, non siamo contrari a priori, ma vorremmo che l'impianto fosse collocato in un luogo più idoneo. I genitori degli alunni della scuola Duca d'Aosta, dell'Istituto Comprensivo di San Giacomo e del Ricreatorio Pitteri di Trieste chiedono alla giunta comunale di fare marcia indietro e costruire l'impianto sportivo previsto in via Frausin da un'altra parte. Si oppongono alla variante urbanistica numero 15, già oggetto di proteste da parte dei cittadini di San Giacomo, una struttura che richiederebbe l'utilizzo di 28 posti auto nel cortile della scuola Duca d'Aosta dalle 16 di ogni pomeriggio, dove fino a quell'ora invece dovrebbero giocare i bambini. Altri 40 posti sarebbero poi ricavati scavando sotto ai campi da gioco del Ricreatorio Pitteri, realtà che viaggiano parallele. Le iscrizioni alla Duca d'Aosta sono legate alla frequentazione del ricreatorio, che i genitori vorrebbero continuasse a funzionare nello stesso modo, senza interruzioni di anni per lavori, anche con riferimento ai servizi SIS e ricrestate. I genitori dell'Istituto Comprensivo di San Giacomo chiedono inoltre, non avendo a disposizione una palestra, di poter utilizzare quella del complesso sportivo comunale di via Vespucci, oppure, se verrà costruita la struttura di via Frausin, di poterne disporre gratuitamente e senza limiti negli orari scolastici. Siamo speranzose e speranzosi, perché in altre circostanze l'assessore Lodi aveva dato uno spiraglio di dialogo. Proprio per questo motivo noi abbiamo raccolto le istanze specifiche delle varie realtà per farle avere all'assessora Lodi. Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Rappresentanti del comune di Udine, regione ed ente regionale di decentramento di Udine si sono incontrati a Palazzo d'Aronco nell'ambito del neoformato tavolo permanente di monitoraggio dell'utilizzo degli spazi scolastici. Il nuovo organo consultivo si propone di affrontare le problematiche organizzative e logistiche delle istituzioni scolastiche pubbliche del primo e del secondo ciclo di istruzione, con particolare attenzione alle carenze di spazi e a una loro razionalizzazione nell'utilizzo. indirizzo. Il tavolo permanente avrà la funzione di esprimere orientamenti e pareri per migliorare la gestione degli spazi educativi. Si tratta di un passo importante per la risoluzione delle criticità legate ai plessi scolastici, con l'obiettivo di garantire una scuola inclusiva e servizi di qualità nell'interesse delle bambine e dei bambini. Le zanzare attive anche in inverno, due casi di dengue a Trieste, l'arrivo di una nuova specie di zecca sul territorio e l'aumento delle malattie che questi insidiosi insetti portano. Tutti effetti dei cambiamenti climatici di cui si è parlato questa mattina a Buongiorno Regione con lo zoologo e curatore del Museo di Storia Naturale Nicola Bressi. Tra le conseguenze dell'innalzamento delle temperature c'è anche l'aumento delle zanzare e delle zecche, tra cui una specie nuova, la zecca marginata, che caccia con la vista, vive in ambienti aperti e ci attacca mentre ci fermiamo sul sentiero. Aumentano anche le malattie, come la TBE, una forma di encefalite. I casi sono in notevole incremento in regione, come pure il morbo di Lyme, molto più comune. La diagnosi non è immediata, mentre è raccomandata la prevenzione, che per la TBE passa attraverso il vaccino. Nicola Bressi, zoologo e curatore del Museo di Storia Naturale di Trieste. Sì, io sono vaccinato e quindi raccomando a tutti quelli che sono amanti delle passeggiate, le escursioni sui nostri colli friulani, sul Carso, in montagna, di farsi il vaccino, perché è sicuramente molto utile, almeno contro una delle malattie che portano le zecche. Per le altre al momento ancora non abbiamo il vaccino, ma intanto una così la eliminiamo. E poi ribadisco, l'importante è toglierle subito e non prestar fede alle vecchie credenze che bisognasse mettere l'olio, deve staccarsi da sola, eccetera. Se si stacca da sola, purtroppo rigurgita, e il rigurgito è il modo migliore con cui può contagiarci. Anche le zanzare sono sempre più numerose perché aumentano i mesi in cui si riproducono, da aprile fino a novembre. Inoltre sono ormai di casa le tigre, ma anche la giapponese e la coreana, che sono attive anche d'inverno. Consigliatissime e quasi d'obbligo le zanzariere alle finestre, un po' meno le disinfestazioni nei giardini di casa. Farlo preventivamente non ha senso, perché andiamo a indebolire proprio tutta la catena alimentare, quindi a lungo andare aumentiamo le zanzare stesse, oltre a farci del male. Alla fine diventano più resistenti e hanno meno predatori. Se disinfestiamo un giardino preventivamente, andiamo a eliminare i ragni, le libellule, tutti quegli animali che mangiano le zanzare, che ci mettono anni a tornare, mentre le zanzare ci mettono settimane a tornare. Per restare aggiornati consigliamo di consultare i siti del Museo di Storia Naturale e morsodizecca.it con i consigli del dottor Ruscio del Dipartimento di Medicina di Laboratorio di Trieste. Trieste, Vaciuk, TGR, Friuli Venezia Giulia. Ed è ancora drammatico il fenomeno degli annegamenti di animali selvatici nei canali artificiali, un problema che aumenta di pari passo con l'incremento della fauna selvatica anche in pianura. A dirlo oggi sono anche i dati registrati sul portale Infofauna della regione, richiamati da un comitato spontaneo che da anni denuncia il problema. Solo nell'ultimo mese una ventina i caprioli caduti e annegati nel canale Ledra a Martignacco, cementificato da poco, a segnalarlo l'avvocato Lara Melchior, presidente del Comitato Spontaneo della Fauna Selvatica, che da anni denuncia il problema. I dati, consultabili sulla web app Infofauna Friuli Venezia Giulia di Regione e Università di Udine, ne danno la dimensione esatta: 426 animali ritrovati nei canali artificiali negli ultimi 2 anni e mezzo, di cui 359 morti per annegamento o ferite, statisticamente la seconda causa di morte dopo gli investimenti su strada. Un dato sottostimato poiché, rileva Melchior, soprattutto i caprioli vengono anche sottratti per essere mangiati. Le specie coinvolte sono le più svariate, dai caprioli, i più numerosi, ai cinghiali, cervi, volpi, sciacalli dorati, tassi, mufloni, lepri, ricci, daini e sporadicamente anche uccelli. Accade tutto l'anno, ma gli annegamenti sono più frequenti fra aprile e maggio, quando i giovani maschi, spostandosi alla ricerca di nuovi territori, finiscono dentro i canali che, per la pendenza delle sponde in cemento, la velocità e la bassa temperatura dell'acqua, si trasformano in trappole mortali. Infofauna registra il maggior numero di annegamenti nell'ex provincia di Udine, più di 140 caprioli in 2 anni e mezzo, oltre l'intero piano di abbattimento annuale delle 21 riserve di caccia dell'alta pianura udinese. Pochi tra i recuperati vivi, con dispendioso intervento di vigili del fuoco, personale del recupero fauna regionale e veterinari, sopravvivono allo stress e alle ferite che si causano per cercare di risalire le sponde o nelle lame degli sgrigliatori. Abrasioni e fratture che aggiungono sofferenza all'annegamento, evidenzia il dottor Stefano Pesaro dell'Università di Udine. L'Ateneo sta guidando gli gli interventi di messa in sicurezza dei canali e dei consorzi di bonifica finanziati dalla Regione. Fino ad ora nell'ex provincia di Udine sono stati realizzati 7 chilometri di protezioni, ne mancano ancora 35, 15 sul Celina Meduna nel Pordenonese e 37 griglie di risalita nella Venezia Giulia. Passi importanti sono stati fatti, osserva Melchior, ma molto resta ancora da fare per un problema noto ormai da 20 anni che ha urgente bisogno di risposte strutturali. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia. E alle 12.45 minuti diamo uno sguardo al tempo, cielo poco nuvoloso sulla costa, coperto in pianura in montagna. Queste le temperature registrate alle 11 a Trieste 21 gradi, il mare è poco mosso con temperature di 20 gradi e mezzo, a Gorizia 23 gradi e mezzo, Udine 21 gradi e 5 decimi, a Pordenone 19 gradi e 5 decimi, a Tarvisio 17 gradi, a Tolmezzo 14 gradi e 5 decimi, a Forni di Sopra 11 gradi, a Piancavallo e Sappada 10 gradi e 5 decimi, sul Monte Zoncolan 6 gradi e 5 decimi, sulla costa Lignano 23 gradi, a Grado 21 e la temperatura del mare in queste due località è di 22 gradi e mezzo. Ed è in arrivo una nuova ondata di maltempo con un'allerta meteo gialla emessa dalla Protezione Civile Regionale, valida fino a tutta la giornata di domani a partire dalle 15 di oggi per la pianura e per la costa a causa delle piogge e intense previste. Sentiamo a questo proposito le previsioni per le prossime ore con l'esperto dell'ARPA Friuli Venezia Giulia, Francesco Sioni. Una depressione avvicinandosi al nord Italia porta aria umida in quota e scirocco sull'alto Adriatico. Questo porterà quindi a una fase di instabilità che andrà da oggi alle prime ore di sabato. Nella giornata di oggi quindi avremo ancora rovesci e temporali sparsi. La fase con più probabile maltempo sarà quella di questa sera, a partire dalla serata e poi nella notte, che dovrebbe riguardare con maggiore probabilità la bassa pianura e la costa. Su queste zone sarà possibile appunto dei temporali stazionari, ovvero potranno esserci delle piogge intense in breve periodo. Domani ancora continuerà l'instabilità, quindi ancora domani cielo da variabile a coperto, domani durante tutto il corso della giornata temporali a più riprese, ma con anche delle lunghe pause tra una pioggia e l'altra. E durante queste fasi potrebbero esserci anche maggiori schiarite verso la costa e la pianura. Domani soffierà scirocco moderato, ci aspettiamo quindi piogge in genere intense con forse qualche temporale forte più probabile sulle zone orientali della regione. Per quanto riguarda il mare sarà parzialmente mosso per lo scirocco che comunque soffierà al più moderato, quindi con raffiche che al più potrebbero toccare i 30-50 km all'ora. E si prevede anche traffico intenso a partire dalla giornata odierna e per tutto il fine settimana sulla rete autostradale regionale in concomitanza con la festività del Corpus Domini, che è festività in Austria, Germania e in altri paesi europei. Bollino giallo sulla A4 in entrambe le direzioni, bollino rosso sulla A23 tra Udine Sud e il nodo di Palma Nova, dove tra l'altro questa mattina si è